che lega, ma non stringe più. Un incontro rapido che fa straripare la mia mente, brividi e passione assolvo, no, le colpe che ho. Non andare via, rimani qui stanotte, non parlare più, so cosa pensi. Colgo l'attimo per cancellare un ruolo tatuato sotto pelle. Colgo l'attimo, sembro ciò che sono, cade il velo e non so se mi avvicino. Sale un vortice, sto scivolando ancora, non sei sola, cerca dentro te, cerca l'ombra come lo vorrei, non sei sola, sotto la cenere si sta svegliando. Non si consuma, graffia il respiro che Marley canta mentre aspetta in vano. Girl, it is physical, I wanna know now, senza dire una parola. Colgo l'attimo per cancellare un ruolo tatuato sulla pelle. Ciò che sono, cade il velo e non so se mi avvicino. Gira un vortice, sto scivolando ancora. Non sei sola, cerca dentro te. Cerca l'ombra come lo vorrei. Si sta svegliando, quel calore ci scotterà. E 17 minuti con una incredibile quasi puntualità inizia la puntata, la prima puntata di marzo di Maldestra, osservatorio antifascista di Onda Rossa. Mi sto strappando dalla terra e dal cielo per portarmi dove non lo so, su questo treno. Un appuntamento tra l'altro incredibilmente a formazione completa dopo settimane di praticamente di solitudine reciproca dei pezzi della redazione. La speranza di non morire, ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare, perché tutto possa finire, finire per non tornare. Tu mi parli, ma io non ti sento più. We'll be right back. vero, con il mio destino, con i miei sogni, con ogni ricordo, con il mio viso, con il tuo sorriso. Ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio, non è importante, non fa poi così male, che bruci i numeri incisi col fuoco, faranno del fuoco la mia via per scappare. Ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non posso lasciarlo con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito, voglio che in cui vive non sia mai cancellato. Senza memoria, la vostra, chi sono io? Perché io non sono nulla senza voi. Andiamo a sfumare la nostra consueta sigla di apertura per iniziare questa puntata marzolina, la prima di marzo di Maldestra, e la apriamo con una corrispondenza con Marino Bisso, firma di Repubblica, perché quest'oggi, come immagino fosse abbastanza intuibile, pensavamo di dare una particolare attenzione alla vicenda di Gennaro Mokbel, o meglio di tutta quella di quella galassia che, appunto, così la definisce Marino Bisso nel suo articolo del 25 febbraio, da cui prendiamo lo spunto, quella galassia di neofascisti intorno alla vicenda dei milioni di euro e dei voti riciclati intorno ai nomi di Girolamo e di Gennaro Mokbel. Almeno questi sono i due, diciamo, nomi di punta, però, da come si evince dalla tua inchiesta, insomma, la rosa è ben più nutrita, insomma. Io ti lascerei la parola intanto per una piccola introduzione, magari per chi non ha letto l'articolo, anche raccontare un po' il succo di quello che c'è scritto. Ma sì, intanto buongiorno a tutti. Mi sembra che gli elementi che sono emersi da questa inchiesta, diciamo, della Procura su questo riciclaggio di circa 2 miliardi di euro fatto attraverso società satellite che ruotavano attorno i mostri della telefonia come Fastweb e Telecom, e fa emergere tanti di quei sospetti, diciamo, e tante cose inquietanti che in qualche modo forse noi fino ad oggi abbiamo immaginato, ma non abbiamo mai trovato scritto nero su bianco su degli atti giudiziari. Mi riferisco a quello che può essere, diciamo, questa rete, diciamo, di personaggi che nascono, diciamo, con la loro, diciamo, personalità forte nell'ambito della versione di destra degli anni 70, e poi riescono in qualche modo a rifarsi una verginità attraverso passaggi intermedi, prima in AN e poi in Forza Italia, fino ad arrivare alla Casa della Libertà, oggi Popolo della Libertà. E sono passaggi inquietanti perché mostrano sicuramente la realtà, una realtà che ci deve far preoccupare, perché personaggi come Gennaro Mokbel, che poi è un po' la mente, diciamo, di questa diciamo, associazione a delinquere, che è riuscita a mettere assieme grandi affari, la politica, diciamo, ufficiale, la politica quella in ombra. E questo personaggio, appunto, Gennaro Mokbel, era diciamo nato, diciamo, negli anni 70 in terza posizione, era amico fraterno di personaggi del calibro di Fioravanti e della Mambro. Nelle intercettazioni lui, che fa proprio riferimento a queste amicizie, fa riferimento a tanti soldi che lui in qualche modo avrebbe investito per aiutare e tirare fuori dai guai questi due personaggi. E questo è, ad esempio, uno degli elementi che emergono dagli atti di questa inchiesta, che ancora non hanno una risposta, ad esempio, perché tutto questo interesse rispetto a questi personaggi a cui è legato, diciamo, tanti misteri e tanti brutti ricordi della nostra storia democratica. Quindi un po' questo, diciamo, è uno degli elementi che emergono, diciamo, dagli atti dell'inchiesta. Andando avanti troviamo altri personaggi che mostrano come da sempre, in qualche modo, militanti dell'estrema destra abbiano fatto la strada assieme a personaggi della malavita locale, e non solo locale, dalla banda Magliana all'Andrangheta, e soprattutto oggi la criminalità organizzata può basarsi proprio sulle sulle affiliazioni dell''Ndrangheta, i clan calabresi, le infiltrazioni che sono sempre più ramificate vicino alla Roma, danno diciamo sicurezza alla politica e l'apporto fondamentale per poi essere eletti, non solo in Italia ma anche all'estero. Il caso di Di Girolamo, il senatore Di Girolamo, che grazie alle alleanze, ai patti diciamo di sangue tra clan calabresi è riuscito a farsi eleggere in Senato. Volevo aggiungere una cosa, non è una sì. cosa tra l'altro che nessuno sapeva, perché ben due anni e mezzo fa la vicenda di Di Girolamo era già uscita fuori, ma nessuno o pochissimi ne avevano trattato in modo adeguato, nel senso già era già stato chiesto diciamo alla giunta della Camera per l'autorizzazione a procedere l'arresto di Girolamo, che puntualmente era stato respinto grazie al voto di tutti i parlamentari, non solo di quelli che in qualche modo potevano proteggere perché in casa sua. Senti, tra l'altro la vicenda di Di Girolamo nello specifico poi si va ad intrecciare con la carriera di Stefano Andrini, no? Che è appunto il da pochi giorni autosospeso, ormai ex appunto amministratore delegato dell'AMA. Andrini indagato anche lui per concorso in questo falso e perché in pratica le elezioni, cioè tutta la truffa è ruotata diciamo a un certificato di residenza che ha consentito di dichiarare e far credere a tutti gli elettori che Di Girolamo fosse abitasse all'estero e quindi fosse un elemento rappresentativo degli italiani all'estero. In realtà Di Girolamo non si è mai mosso da Roma, ha avuto soltanto la fortuna di avere le amicizie giuste per far risultare la residenza in Belgio, e questo grazie appunto a Andrini che a sua volta poteva contare sull'amicizia del console dell'italiano in Belgio. Insomma, tutto semplice, tutto normale, come con tante cose che succedono in Italia, e tanti poteri forti che possono fare e possono gestire le cose come vogliono loro, con la prepotenza che hanno sempre, che avranno sempre, purtroppo, aggiungo. Tra l'altro uno degli elementi che balza all'occhio è che questa inchiesta si delinea poi ovviamente col peso di una, insomma, diciamo, anche delle fasi in qualche modo preliminari di un'inchiesta, quindi abbiamo una lista di nomi molto ampia, spazia dagli ambienti delle 'Ndrine calabresi al PDL, passando appunto attraverso l'ex e attuale eversione di estrema destra. Però su questo proprio ti volevo aggiungere una cosa, giusto proprio sulle alleanze, le coperture, diciamo invece quelle istituzionali. Dalle carte appunto delle inchieste emergono che comunque non ci sono solo i politici, ci sono generali della finanza, ci sono poliziotti, anche finanzieri che comunque danno copertura e collaborano in questo. Nulla di nuovo, aggiungo sempre io, perché è sempre stato così. No, tra l'altro perché qua stiamo parlando ovviamente di un meccanismo talmente complesso che ovviamente non possiamo immaginarci un inesistente collusione comunque di apparati della pubblica sicurezza o comunque di quello che riguarda un po'. E anche dell'intelligence, sicuramente ci sono stati sicuramente dei pezzi, diciamo così, non usiamo questa espressione benevola, impazziti, che in qualche modo si sono adoperati per comunque far lavorare in questo modo questi personaggi, lasciarli lavorare in questo modo. Comunque quello che stavo cercando di dire era che per la prima volta emerge un po' una sorta di emergono tutti i collegamenti, emergono nomi che finora, anche da questi microfoni, abbiamo più volte comunque denunciato come delle vere e proprie pugni negli occhi nelle nomine delle amministrazioni pubbliche, specialmente capitoline. Questa volta, diciamo, con questa inchiesta si iniziano a chiarire un po' quali collegamenti, quali relazioni. Tra l'altro emergono nomi come Mokbel, che in qualche maniera erano spariti completamente. Sì, erano l'oblio, diciamo. Esatto. Quanto invece ma, poi... Ma guarda, c'è anche un motivo perché erano l'oblio. Perché comunque, molto probabilmente oggi, se non fosse uscita questa inchiesta, Mokbel sarebbe stato il personaggio che è, quindi un imprenditore affermato che appoggiava un sacco di iniziative istituzionali o paraistituzionali, con gallerie d'arte, con conti all'estero, con so tanti soldi da far girare e far girare nelle tasche giuste. Tra l'altro, una delle cose più interessanti è il discorso sportivo, per esempio, il fatto che cantatore e altri sportivo e diciamo di riproduzione un po' anche di quel un po' interno a quell'ambiente, perché tanto cantatore quanto anche produzioni cinematografiche eccetera venivano comunque di personaggi noti, Calvagni eccetera, sono tutti sì, Calvagni, sì. Nomi più o meno noti di quella diciamo di quell'humus primo piano poi della cultura della destra neofascista romana, e che adesso insomma iniziano pure ad avere il loro posto nel pazzo. Poi se vai a vedere, per esempio, Calvagna, Andrini, parlando di cose ancora più spicciole, tu hai giustamente fatto un riferimento alla realtà sportiva, facendo diciamo un passo indietro, ma non troppo indietro, perché arriviamo all'inizio degli anni, della fine degli anni 90, comunque sono personaggi che sono parte attiva non solo in movimenti tipo quelli di Boccacci, del neonazist King diciamo, ma sono parte attiva dei movimenti così della curva tipo gli Irriducibili, che nel loro DNA hanno questa componente sicuramente neofascista e di estrema destra. Tanto non nuovi, poi gli Irriducibili nello specifico, non nuovi poi a tentativi. Scusa, non ti sento mai. Scusami, non nuovi a tentativi di affermarsi anche in ambienti forse più grandi loro. Insomma, penso che gli ascoltatori ricordano la vicenda della scalata alla Lazio al seguito di Chinaglia. Sì, certo, forse in quel contesto loro hanno pestato interessi troppo forti. Sì, Lazio, infatti di qualcosa è un po' diverso, però evidentemente un po' questa questa suggestione da romanzo criminale forse è un po' presente. No, quello che diciamo, poi magari qua non so la tua disponibilità, però diciamo cerchiamo di chiudere anche per poter dare spazio anche ad altre voci. Una cosa molto interessante, penso che quello che insomma poi collegandomi a quanto dicevamo prima. Non sono pochi i nomi che entrano nella galassia dell'amministrazione pubblica di questa città, non sono pochi i nomi tra l'altro legati ad un passato politico, a un'identità ben specifica, che è quella di terza posizione o comunque degli ambienti ex missini o comunque compromessi con quell'area politica. E ce ne sono tanti altri, a partire dallo stesso segretario personale di Alemanno, Lucarelli, sì, eccetera. Ti e uno degli ambiti più interessanti di questa inchiesta è il fatto che effettivamente fossero poi, volendo, i lavori pubblici e le opere pubbliche del comune a poter essere centrate nel mirino di questo riciclaggio. Questo aspetto qui ancora, se c'è, è ancora da sviluppare. Nel senso di come eventualmente diciamo appalti del comune si possono legare a questa realtà. Questo è un passaggio ancora da molto da sviluppare, se è sviluppabile, perché purtroppo penso non sia così manifesto, ecco, se c'è. Sì, no, infatti io in realtà mi riferivo appunto a già delle pulci al naso che venivano messe anche dalla stessa Repubblica in articoli intorno al 26, ma più che altro perché... A quello forse ti riferisce diciamo tutta la partita degli appalti che non sono stati indati senza gare, senza bandi pulci, ma in trattativa diretta, dici? Sì, esatto, perché comunque quello è un meccanismo che ovviamente... Sì, però guarda, questo qui è più un meccanismo forse che trasversale, che non ci vedo tanto una matrice ideologica dietro dell'estrema destra, vedo purtroppo una matrice puramente degli affari, del malaffare degli affari, cioè che purtroppo è sempre più trasversale non mi sento dire di dare delle definizioni diciamo ideologiche, queste perché rimangono solo malaffari che vengono normalmente gestiti sia tanto dal centro-destra che dal centro-sinistra. No, ma infatti è proprio questo, penso sia il punto, anche cercare di un po' demolire tutta la vicenda da Romeo, che era stata partorita sotto la giunta Veltroni. No, ma assolutamente, ma infatti quello che sto dicendo è proprio cercare di demolire anche questa immagine di integrità che la destra sociale si è costruita sulla città di Roma, proprio a partire dal principio che... No, è proprio quello poi anche il succo, insomma, capite? Che poi... Sì, indubbiamente tu hai ragione, forse c'è un problema a monte. Non è che forse la destra sociale è riuscita a costruirsi, diciamo così, una credibilità. Piuttosto è il contrario, è che la sinistra ha perso credibilità e ha lasciato spazio a tanti vuoti che sono stati riempiti. Secondo me forse un'analisi che, su cui bisogna riflettere e su cui bisognerebbe in qualche modo cercare di trovare, diciamo, dei punti d'intesa per invece cercare di ricostruire un tessuto di rete sul territorio, nei quartieri, nelle borgate, dove veramente purtroppo la realtà emergente è quella, diciamo, di una cultura di destra che si impossessa, diciamo, delle parti più popolari della società. Guarda, tra l'altro questo invito, insomma, diciamo che ci sembra assolutamente proprio opportuno. Questa radio normalmente ovviamente non si schiera, per esempio, in ambito elettorale, insomma, spinge la politica che viene costruita quotidianamente nelle lotte, appunto, nei territori, però, diciamo, questi sicuramente sono aspetti da tenere molto sott'occhio quando poi abbiamo una scadenza particolarmente animata come quella delle prossime regionali, insomma, in cui ovviamente poi quel tipo di area culturale è in lizza con una sua candidata, un'espressione delle proprie fila. Io non so se hai altro da aggiungere. No, io vi ringrazio, mi sembra che sia molto interessante fare questi approfondimenti, spero che continuate a farli in modo così tempestivo, insomma. No, guarda, tra l'altro ti dico, se vuoi continuare a rimanere, se hai possibilità di rimanere in collegamento, pensavo proprio di continuare su questa traccia, quindi come vi ascolterò, vi ascolto, purtroppo devo andare a Palazzo Giustizia. Va bene, buon lavoro allora. Un abbraccio a tutti. A te, un abbraccio, grazie. Ciao. We're told that after the war the Nazis vanished without a trace. But battalions of fascists still dream of a master race. The history books, they tell of their defeat in 45. But they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat. Whilst Hess remained in prison, then the fascists, they were beat. So the promise of an Aryan world would never materialise. So why did they all come out of the woodwork on the day the Nazi died? The world is riddled with maggots, the maggots are getting fat. They're making a tasty meal of all the bosses and bureaucrats. They're taking over the boardrooms and they're fat and full of pride. And they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. So if you meet with these historians, I'll tell you what to say. Tell them that the Nazis never really went away. They're out there burning houses down and peddling racist lies. And we'll never rest again until every Nazi dies. A chi regali parole, forse a quel triste malato di... Allora, alle 12.36 ritorniamo in studio, andiamo però a sfumare questa canzone degli Ataraxia Group per continuare questa trasmissione con subito un altro collegamento che dovremmo avere appunto al telefono. Intanto sentiamo se ci senti il nostro pezzo di redazione ormai telefonica, visto che continua a darci buca in studio. Ci senti? Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, io non so se tu hai potuto sentire finora, comunque abbiamo cercato di fare con Marino Bisso di Repubblica un po' il punto, anche per andare a riassumere un po' come si è snodata questa inchiesta, quali sono stati anche il coinvolgimento dei vari personaggi della destra radicale che l'hanno attraversata. E mentre con te invece vorremmo andare un po' più a ti volevamo chiedere appunto un'analisi di cos'è che questo quadro ci restituisce rispetto anche appunto ai rapporti che evidentemente si delineano tra pezzi di destra radicale, pezzi che attraversano anche le istituzioni, nello specifico poi quelle capitoline, e invece quella appunto galassia di malaffare, malavita o come la vogliamo chiamare. Ma io ripartirei, diciamo, da ciò che emerge dall'inchiesta per fare un passaggio molto rapido e arrivare, diciamo, al quadro politico della vicenda. Uno degli elementi più importanti, diciamo, dal punto di vista del coinvolgimento delle figure della destra radicale riguarda il recapito fornito da Di Gerolamo a Bruxelles. Bene, la cosa interessante è che sostanzialmente a sollecitare Di Gerolamo a trovarsi una casa, ad aiutarlo ad avere una casa, interviene addirittura l'ambasciatore italiano in Belgio, che a detta delle cronache dei giornali di questi giorni è un uomo molto vicino a Vattani. Vattani, ex eminenza grigia della Farnesina, figura molto importante della nostra diplomazia, ma diciamo ai fini della nostra storia soprattutto il padre di uno dei giovani che alla fine degli anni Ottanta furono fermati insieme a gemelli Andrini per la famosa aggressione a Piazza Capranica. Bene, Vattani padre è una figura molto importante della nostra diplomazia, Vattani figlio che esce prosciolto da quella vicenda, non viene condannato dall'aggressione in cui vengono invece condannati due fratelli, due gemelli Andrini, si incammina diciamo sulla carriera diplomatica del padre ed è stato recentemente nominato dal sindaco di Roma Gianni Alemanno come consigliere diplomatico del Comune di Roma. Perché questo è il primo elemento? Perché questo elemento ci dice che non stiamo parlando di una marginalità di relazioni, ma stiamo parlando di o di un piccolo clan di amici che si ritrova, ma di relazioni tra la politica, il mondo della comunità neofascista, e poi l'inchiesta ci dirà fino a che punto anche col malaffare o la malavita organizzata, che è estremamente ramificato. Perché la vicenda che porta Andrini al posto dell'ama e che sembra iniziare dalla quell'aggressione a Piazza Capranica, come se diciamo quella vicenda che vede un ragazzino ridurre in fin di vita un altro ragazzino facesse nel mondo neofascista acquisire molti punti, no, per così dire, a questa figura, attraversa un percorso che incrocia altre figure oggi molto vicine ad Alemanno. Negli anni 90 Andrini è nella redazione della Spina del Fianco, giornale più o meno sponsorizzato da Stefano Delle Chiaie, che punta a ricucire, o almeno così si dice, diciamo la dicotomia con l'estrema sinistra degli anni 70. In quella testata lavora anche Marcello De Angelis, oggi lo sappiamo tutti, parlamentare della Repubblica, braccio destro di Gianni Alemanno, vero costruttore nel corso degli anni 90 della relazione altissima che si mette in piedi tra Alleanza Nazionale e tutti i gruppi della destra radicale, anche perché come cantante dei 270 bis De Angelis è una figura di culto e soprattutto è uno che si è fatto per 15 anni tutti i festival, tutti i raduni, tutte le feste, tutte le cose, cioè è un uomo di collegamento, semmai ce n'è stato uno. Finita l'esperienza Spina nel Fianco, diciamo collaborazione con Delle Chiaie, Andrini finisce a metà strada tra l'Alleanza Sportiva Italiana, cioè la struttura sportiva di Alleanza Nazionale, e soprattutto con i comitati tricolori italiani nel mondo, che sono il partitino di Mirko Tremaglia dentro l'MSI prima, dentro l'Alleanza Nazionale poi, con cui Tremaglia costruisce tutta la rete di relazioni nelle comunità italiane all'estero e costruisce soprattutto il terreno per la legge, la famosa legge degli italiani all'estero, che oggi lo stesso centrodestra, preso con le mani nel sacco, ci dice essere una porcata che favorisce diciamo ogni genere di abuso. Questa è la carriera di Andrini, e su questa base, con questa carriera, lui poi viene chiamato all'ama. È evidente che non stiamo parlando di una figura di secondo piano, ma stiamo parlando di qualcuno che ad esempio 4-5 anni fa, con l'elezione di Laro, personaggio molto discusso diciamo della comunità italo della comunità italiana in America Latina, fece già vedere quanto potente potesse essere, cioè un uomo in grado in quella stagione di muovere molti voti, più o meno l'accusa che sta venendo fuori nelle carte del processo di Girolamo, anche in questo caso. Non un personaggio marginale, ma un personaggio assolutamente ben inserito in un circuito di potere. Lo sfondo di questa vicenda, dell'insieme di questa vicenda, è proprio quello che vede una serie di figure importanti, molto lunga, abbiamo detto Andrini e De Angelis, potremmo dire è il protagonista proprio in questi giorni della battaglia, la riassegnazione dello spazio alla lista del PDL nel Lazio, Vincenzo Piso che viene da terza posizione, potremmo parlare di Lucarelli, figura importante che è passata per Movimento Politico, Forza Nuova, e che oggi siede diciamo alla destra, se così possiamo dire, di hanno comunque una figura di primo piano. E garante di queste relazioni sono i vecchi diciamo giovanotti del Fronte della Gioventù, da Augello Malcotti, che sono stati negli anni 80 e negli anni 90 coloro che hanno accompagnato l'emergere della figura di Gianni Alemanno, prima dal Fronte della Gioventù romano, poi a quello nazionale, Pagliaria fino a un posto importante nel partito dopo la nascita di Alleanza Nazionale, fino appunto alla candidatura vittoriosa alle municipali di Roma. Questo non è, come dire, quello che ci diranno le carte del processo sulla vicenda di Girolamo, solo una vicenda giudiziaria. La vicenda giudiziaria, al di là di come andrà a finire, illumina in modo molto evidente una vicenda politica. Cioè c'è un percorso che ha diciamo, organizzato praticamente la fila dell'estrema destra, che ha preso una parte importante di questi quadri e li ha messi in posti, se si può, importanti, perché voglio dire stiamo parlando di figure di rilievo all'interno dell'amministrazione capitolina, stiamo parlando di figure di primo piano del partito a Roma e quindi, come dire, diamogli tempo, no? Potranno crescere e arrivare chissà dove. Tra un ministro, Tremaglia, un sindaco, Alemanno e molte altre figure importanti, diciamo all'interno di quella che è diventata la famiglia post-fascista dopo la nascita di Alleanza Nazionale. Sì, tra l'altro, guarda, io una cosa che dico anche un po' a margine di questo ragionamento, che in qualche modo serve anche a andare a raccontare un po', sfatare un po' questo mito dei, appunto, che si è costruita la destra sociale e gli ambienti del neofascismo, anche capitolino, rispetto a una loro purezza in qualche modo o incorruttibilità e quant'altro, che rispetto a tutti i nomi che tu facevi anche appunto di personaggi del PDL, ex AN e quant'altro, nei verbali di queste inchieste emerge anche il nome di Palozzi, l'ex, cioè, o meglio, penso che sia ancora in carica, sindaco di Marino, visto che proprio Palozzi sarebbe, secondo appunto quelle intercettazioni, uno dei referenti di Gennaro Mokbel, che direbbe appunto in queste conversazioni, farebbe riferimento a Palozzi come a uno dei possibili contatti a cui rivolgersi. Proprio Palozzi, tra l'altro, è uno dei due candidati designati da i neofascisti romani di Casa Pound, uno è Palozzi, l'altro è Malcotti, come appunto le loro espressioni da portare in consiglio regionale, candidate appunto nella lista al destino piuttosto sfortunato di Renata Polverini. Questo solamente per aggiungere un elemento, un tassello a questo quadro, anche rispetto appunto a quello che dicevamo prima. Certo, perché questo, diciamo, conforta la tesi che l'intera operazione sia in realtà appunto un'operazione giudiziaria di cui vedremo poi l'esito, stia illuminando qualcosa che era sotto gli occhi di tutti ma che in qualche modo, in questo modo, non si è mai raccontato. Cioè l'idea che dentro un pezzo di Alleanza Nazionale, in particolare la cosiddetta destra, si sia fatta un'operazione che ha recuperato due o tre generazioni, se ci mettiamo anche i vari Castellino entrati di corsa dentro il PDL, prima N e poi circa un annetto fa, poco prima che nascesse il nuovo partito unitario della destra, tutte le generazioni del neofascismo capitolino, mettendo in qualche modo a valore esperienze e capacità acquisite sul campo, anche se queste capacità acquisite sul campo, vedi la vicenda Andrini, vedi la vicenda Castellino, ma vedi anche la vicenda di alcuni degli altri personaggi fin qui nominati, è una vicenda fatta di violenza, fatta di sopraffazione, fatta di aggressioni, cioè il classico background, diciamo, dello squadrismo. Ultimo elemento, io forse su questo mi fermerei, visto che credo voi abbiate un altro collegamento, che rimane, diciamo, in ombra rispetto a questa vicenda, il rapporto con Gianfranco Fini, perché bisogna dirlo in modo molto chiaro: dal 95, quando nasce Alleanza Nazionale, Alemanno è il grande sostenitore e il grande alleato di Fini dentro il partito, è lui che sposta un pezzo consistente della giovanile, altrimenti tentata, se non dall'uscita, Pino Rauti all'epoca, il vecchio capofila di quest'area, se ne andrà e fonderà i suoi piccoli partitini, insomma, oggi ridotti proprio a livello minimo, e sostanzialmente Alemanno è il garante della tenuta sul territorio, soprattutto nei posti dove questa tenuta vuol dire numeri, organizzazione, reti sociali, Roma in particolare, della tenuta di quest'area e dello spostamento di quest'area nei confronti di Gianfranco Fini. E questi 10 anni sono a dimostrarci il peso crescente che all'ombra di Gianfranco Fini, quasi a scambio di questa relazione molto forte, ha acquisito la destra sociale di Alemanno, fino a pensare di candidarlo, ma che è il coronamento, è quasi il premio di questa fedeltà decennale dell'aver tenuto queste energie, comprese quelle della destra radicale, dentro il partito. Questo magari non ci dice nulla dal punto di vista, anzi non ci dice nulla dal punto di vista della vicenda giudiziaria, credo ci dica moltissimo dal punto di vista della vicenda politica e moltissimo dal punto di vista del carattere nuovo, democratico e post di questa destra, che comunque insomma questo tipo di percorso ha fatto e sembra, dalle scelte di riciclaggio di queste figure nella vita politica, continuare a fare e in qualche modo rivendicare fino in fondo. Va bene, io effettivamente, come dicevi anche te, il tempo è un po' agli sgoccioli, abbiamo anche un'altra corrispondenza da sentire, quindi se tu non hai nulla da aggiungere io penso che possiamo... Va bene, comunque penso che poi ne possiamo anche ritornare a parlare nelle prossime settimane sempre con te, dai. D'accordo, ciao. Ciao. A chi regali parole, forse a quel triste malato di cuore, o amiche che si è sentito solo, tanto che dalla prigione uscì in volo. Dimmi che voce ha dal vero quel suonato. C'è sempre un fiore, da quando stai sulla collina, niente è cambiato, tutto è come è stato prima. C'è ancora gente che si proclama assolta, ma come una volta, è sempre per sempre. E allora andiamo a ruota direttamente con l'ultima corrispondenza di questa trasmissione, infatti sono le 12.50 e noi siamo al telefono con Saverio Ferrari, un po' l'anima dell'osservatorio antifascista democratico milanese. Ci senti? Vi sento benissimo, buona giornata anche a voi, grazie. Buona giornata a te, è un piacere ovviamente riaverti da appunto da queste frequenze. Immagino che tu, ovviamente trovandoti a Milano, non hai avuto la possibilità di sentire quanto detto finora. Noi abbiamo cercato... No. Infatti, lo supponevo, abbiamo cercato di restituire un po' il quadro di questa inchiesta appunto e dei rapporti che delinea tra malavita e destra radicale, attraversando appunto poi contesti più o meno istituzionali delle amministrazioni locali. Noi ovviamente abbiamo parlato, parlando appunto di Roma, dell'amministrazione capitolina. Con te invece volevamo andare a raccontare un po' anche di analogie tra quanto sta emergendo adesso rispetto alla situazione romana e quanto invece tu poi hai seguito e anche negli anni denunciato invece avviene nella città di Milano. Ovviamente a Roma parliamo di Banda della Magliana, a Milano parliamo di qualcos'altro, però in qualche modo questo tipo di situazione non è nuova neanche a voi, no? No, non è nuova, anche se per quel che riguarda Milano non è che siano emersi elementi dalle indagini tali per cui si possa tranquillamente formulare delle accuse. C'è il rischio, come sempre, ed evidente, delle querele, però alcune cose si possono dire. Noi abbiamo ad esempio nella città di Milano un vice coordinatore provinciale del Popolo delle Libertà che si chiama Alessandro Colucci, che è stato filmato dai magistrati in una cena elettorale del 2005 promossa niente di meno che dalla famiglia dei Morabito, cioè da quell'andrina calabrese che poi è finita in carcere relativamente alle vicende dell'ortomercato, dove avevano utilizzato alcuni padiglioni, alcuni elementi e soggetti che lì dentro vi lavoravano per spacciare grossi quantitativi di droga. Beh, questo signore non ha compiuto alcun reato perché ha fatto semplicemente una cena elettorale, però è quello che è certo è che i suoi voti arrivano da quelle famiglie, tant'è che nelle intercettazioni telefoniche si è parlato apertamente da parte degli uomini della 'Ndrangheta del fatto che avevano un amico in regione, quindi il rapporto e l'intreccio tra la politica di destra e la malavita è cosa anche profonda qui da noi. Si possono aggiungere altri elementi, i rapporti tra vecchie figure di Avanguardia Nazionale e la grande malavita organizzata nelle zone sia di Quartoggiano che del sud Milano, Bucinasco, Corsico, Trezzano sul Naviglio, è ancora oggi al centro di alcune indagini, il cui esito attendiamo a nostra volta, però politicamente, senza fare alcun nome preciso, possiamo dire che questi intrecci sono storicamente accertabili. Senti, tra l'altro una cosa che ci incuriosisce molto capire è fino a che punto c'è l'intreccio appunto con la malavita, con la M maiuscola in questo caso, arriva poi a diventare in qualche maniera a farsi anche sistema di governo, di potere. Prima accennavi a una delle vicende milanesi relativa dicevi nettezza urbana? No, l'ortomercato, cioè scusa, uno dei più grossi... In realtà no, a Roma invece è sulla nettezza urbana che rientra in questa galassia, poi capire quanto fosse coinvolto pure quel livello... Certo. Sicuramente uno dei nomi però appunto è quello di Andrini, che era amministratore. E qui sull'ortomercato, che tieni presente è uno dei più grossi mercati europei, la 'Ndrangheta rientra dopo che era stata cacciata da precedenti indagini della magistratura, quando al vertice dell'ortomercato arriva un uomo di AN. Nel momento in cui arriva lui, nel giro di pochi mesi, la famiglia Morabito, che aveva quegli interessi che dicevo prima, rientra in forze. Potrà essere un caso, forse non lo è, anche perché per stabilire al vertice dell'ortomercato quell'uomo di AN ci fu uno scontro all'interno di AN, per cui una precedente autorevolissima figura fu messa da parte anche con minacce pesanti che io denunciai. Gli arrivavano a casa delle buste con dentro dei proiettili. Beh, arrivò un uomo, una persona che vinse nello scontro interno al partito, e poi, ripeto, sarà stato forse un caso, nel giro di pochi mesi rientrarono alcune famiglie dranghettose alla grande in quello che, ripeto, è uno dei grossi ortomercati d'Europa. Va bene, senti, io non so se tu hai ancora qualcosa da aggiungere oppure perché se... alcune figure invece, più implicate nella storia del neofascismo milanese. Infatti io proprio di quello ti volevo chiedere, infatti ti lascio allora la parola. No, che alcune di queste figure che ormai sono entrate nel Popolo delle Libertà, perché non siamo più allo sdoganamento come si dice, ma siamo al reclutamento, qui vi sono alcune figure che sono entrate a far parte direttamente del Popolo delle Libertà, attorno alle quali, figure del neofascismo milanese, attorno alle quali vi sono nuove indagini della magistratura rispetto ai rapporti con le famiglie della 'Ndrangheta calabrese in alcune zone del sud Milano. Questo non è legato solo agli affari, sembrerebbe da queste prime risultanze di indagini, ma legato al fatto che vi era un rapporto per convogliare voti a suo tempo su AN, adesso voti sul Popolo delle Libertà. Io ripeto, i nomi non li posso fare perché altrimenti mi prenderei una querela grande come una casa, però non è che riguarda semplicemente i rampanti di adesso, questo rapporto e questa vicenda con la criminalità organizzata, riguarda anche vecchie figure che hanno una storia di neofascismo, che hanno fiancheggiato e attraversato il terrorismo nero e che adesso sono dentro il Popolo delle Libertà e sembrerebbe che su di loro si appuntino alcuni interessi da parte degli inquirenti, perché sono coloro che convogliono i voti o fanno convogliare i voti proprio sul Popolo delle Libertà, una sì. cosa interessante. Tra l'altro, allora, senza fare nomi, come dicevite, diciamo che questa poi sembra anche un po' la parabola di molti ex appartenenti a Terza Posizione, che in qualche modo si trovano poi a fare questo tipo di ruolo nel PDL al giorno d'oggi. Adesso io, allora, a questo punto hai detto anche l'ultima cosa che in qualche modo ti volevamo chiedere. Noi siamo anche in chiusura, non so se hai qualcosa da aggiungere a conclusione di tutto questo, oppure se... Beh, che da noi c'è anche la Lega, che da voi in questo momento per fortuna non è ancora arrivata alle porte della capitale, e i comportamenti che in realtà poi la Lega cerca di sostenere siano assolutamente di grande pulizia e trasparenza, beh, comincia a non essere neanche da queste parti più così tali, perché anche la Lega ha cominciato a intrecciare rapporti con un mondo, soprattutto relativo a quello, ripeto, dell'estrema destra, che ha dei comportamenti certamente non lineari dal punto di vista della legittimità, e credo che dovremmo tornare a parlarne, perché qui da noi, faccio un esempio preciso, a differenza che a Roma Casa Pound non sta nell'orbita del Popolo delle Libertà, qui da noi Casa Pound sta nell'orbita della Lega, sì, in modo particolare di Borghezio. Esatto, grazie anche a un gioco di associazioni culturali. Esatto. Sì, magari io penso che questo sia sicuramente un argomento interessante da andare a sviscerare, magari anche se non la settimana prossima, comunque in una delle prossime puntate di Maldestra. Va bene, noi a questo punto allora ti rimandiamo direttamente a appunto una prossima chiacchierata, e per adesso ci salutiamo, va bene? Va bene, buona giornata anche a voi. Buona giornata, grazie ciao, ancora. Ciao. Allora, alle 13, sulle note di Oltretorrente degli Atarassia Group, andiamo a chiudere così questa puntata monografica quest'oggi di Maldestra. L'appuntamento, come di consueto, con questa trasmissione è per martedì prossimo alle 12.15 circa. Ricordiamo anche i contatti del blog maldestra.noblogs.org, dove è possibile riascoltare le trasmissioni passate e andarsi a spulciare un po' di contenuti anche extra. Ovviamente, come ci ricorda giustamente anche da qui, i contatti anche della radio, 06 49 17 50, il numero di telefono, ondarossa@ondarossa.info, l'email, niente fax, perché al momento, anzi, ci invitano a non dare più il numero e non mandare i fax, visto che al momento è fuori uso, quindi si consiglia di usare l'email. E un saluto a tutti e a tutti, vi lasciamo tra qualche istante alla GR di Radio Onda Rossa. Back up on the same old hill till they flag to the youth, but who swallows it below? My dog, she watching, watching, man, and it's in. Now we later.